Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Lestolmo Rock. Domenica, ennesima domenica di intervista, ma prima di andare a effettivamente a confermare e dire finalmente ce l'abbiamo fatta al mio amico, l'ospite, meno male che ho qui davanti a me, voglio iniziare con due piccole notizie. Oltre alla notiziona che i Foo Fighters hanno sostanzialmente licenziato Josh Fritz senza apparentemente nessun particolare motivo, poi magari ne parlerò se salterà fuori qualcosa nei prossimi giorni, ma per chi non lo sapesse, i First and the Gimme Gimmes hanno effettivamente cambiato nome, adesso si chiamano Spike and the Gimme Gimmes. Cambio che ci può stare perché effettivamente è l'unico membro che è rimasto dalla formazione originale degli anni 90, quindi dopo vari susseguirsi di vari artisti ci sta anche questo cambio di formazione. Altra notizia molto più positiva è Luke Holler ha detto che è guarito dal cancro, quindi magari riuscirà, lo rivedremo nei prossimi live, anche magari anche qui in Europa. E guarda che attacco che ho fatto, questa me la sono studiata bene adesso, magari lo vedremo all'Howell Fest. Non Ciao. Sarebbe neanche male. Ciao. Ciao Claudio, tutto bene? Tutto benissimo, grazie mille dell'invito, come sempre, super gentile. Guarda, come dicevo, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo il disastro dell'anno scorso, che comunque intervista fatta, però c'era stato questo disguido di Instagram qualche domenica fa, anche qui qualche errore da parte mia per un cavetto inutilmente, per una roba anche lì veramente assurda, però ce l'abbiamo fatta. Però effettivamente, come la vedresti questi Sick of It All magari all'Howell Fest? No, beh, ci rivedrei molto bene. Diciamo che è una band che negli anni passati avevamo già provato un pochettino a sondare e, insomma, sicuramente ci potrebbero stare bene, dai, quindi mai dire mai, assolutamente, anzi, magari si potrà fare, chi lo sa. No, però bene. Sì. Bene, bene, anche perché sinceramente ci li vedrei molto bene all'Howell Fest, quindi... Sì, la giusta dimensione, secondo bravissimo, me. Bravissimo, bravissimo. Dato che non ho la domanda introduttiva, perché te l'avevo fatta la volta scorsa, che era riguardante il discorso dei NoFX, ne ho trovata un'altra, comunque abbastanza facile, comunque, per modo di dire. Okay. Da organizzatore di festival, come meno male sei tu, magari con amici, crew che hai al seguito, o comunque certo. con cui collabori o collaborate, ti vado a chiedere semplicemente. Cosa ne pensi di quei super mega festival con 5 palchi, una sessantina di band al giorno e con orari praticamente che si vanno a incavallare? Per esempio, per farti un esempio molto più pratico, come possono essere Wacken e le feste qui in Europa da noi? Ma allora, cosa ne penso? Sono delle cose che sono, anzitutto, per quanto poi la parola festival possa venire usata appunto per il Wacken, per l'Hellfest e quant'altro, e come per il Lowe, sono due cose che sono, cioè, ma non, sono completamente alle antipodi. Allora, quest'anno, per dire, io andrò al Geron Air, ok? Quindi per citarne uno, effettivamente magari anche un pochettino più piccolo dell'Hellfest e quant'altro, però insomma siamo lì. Sarà la prima volta appunto in un mega festival per me, quindi magari poi mi farò un'impressione anche più, un'opinione un pochino più precisa. E allora, sono un'opportunità in questo momento quasi una delle poche per avere magari delle band non europee suonare sul, diciamo, suolo europeo, quindi sono sempre un'opportunità per vedere tante band che magari è difficile riuscire ad andare a vedere durante l'anno, ancora di più qui in Italia, che passano veramente poco. Chiaramente poi c'è tutto un discorso di sostenibilità, di impatto effettivo di questi festival, che insomma non sono sicuramente non è una questione da far passare inosservata, quindi è sempre un po' il discorso, sì, possono un'opportunità, magari ti permettono di scoprire tante band, vedere band che se no non potresti mai intercettare, però dall'altro sì, forse diciamo sono comunque un po' controversi da quel punto di vista appunto di sostenibilità e quant'altro. Ok, ci sta. Giusta risposta, effettivamente. Io li vedevo molto più, dici, figate, dici guarda quanta roba che c'è. Crescendo mi sono accorto che preferisco i festival un pelo più piccolini, con un po' meno gente, magari tipo non quelle 100-120 mila persone, ma una metà mi basta, è più che sufficiente, con due palchi, così hai modo di vederti effettivamente tutto quello che ti interessa. Sì, però sì. Poi sono proprio un prodotto estremamente commerciale, per quanto magari uno si va a vedere un festival prettamente hardcore, poi in realtà sei all'interno di un prodotto confezionato estremamente commerciale, quindi insomma devi... Pro e contro. Esatto, pro e contro, pro e contro. Ci vai per le band, dai, diciamo così. Bravissimo, diciamolo che ci vai per le band. Detto questo, rotto il ghiaccio con Claudio del The Well Fest, che dopo ci andremo effettivamente a parlare, a snocciolare ancora di più l'organizzatore di quest'anno e questa sesta edizione, che ricordo che si svolgerà allo spazio 4 di Piacenza, 20, 21 e 22 di giugno, confermami. Esatto, preciso. E rientriamo, dopo aver rotto il ghiaccio anche con il discorso musica, a parlare del Lowell Fest, sesta edizione. La cosa che ho notato, bene o male, anche guardando un po' le line-up vecchie, che sembra, adesso poi correggimi se sbaglio, no? Mi sembra di aver notato, essendo la sesta edizione, che si è andata a coppie queste tutte le varie edizioni, no? Nel senso, le prime due, tanto italiano, tipo tra i ragazzi morti e tutto quello che ne veniva a seguito. Altre due con Good Riddance e con Back Kid, quindi punk rock hardcore melodico. E queste ultime due, quella dello scorso anno e quest'anno, questo hardcore, punk hardcore un po' più cazzuto, un po' che strizza l'occhiolino al metalcore. Sbaglio? O è una casualità? Allora, non è prettamente voluto, diciamo, ok, quindi, però, nel senso, non è sbagliata come chiave di lettura. Beh, diciamo che i primi anni era un po' anche il fatto di fare tante band italiane era necessario, perché comunque chiaramente devi sempre partire da una base solida, quindi chiaramente devi, diciamo, imparare a organizzare il festival, e quindi giustamente anche corretto partire dalle band locali, poi magari fai un passo più in là e appunto le band di, diciamo, che hanno un richiamo più nazionale e quant'altro. Però la nostra idea era sempre stata quella di andare più possibile verso l'estero, senza ovviamente mai dimenticare, diciamo, della scena italiana, che deve essere sempre preponderante e lo sarà sempre, però andare sempre un pochino più verso l'estero. Dal punto di vista, diciamo, del genere, anche qui non ci siamo mai messi troppi paletti, nel senso, non volevamo fare un festival che fosse solamente di genere, quindi molto settoriale, molto chiuso, anche perché volevamo fare qualcosa che ogni anno avesse un tocco di originalità, cioè per dire vado al Lowell perché sono sicuro che se no in altri posti una certa tipologia di cosa non la trovi. E poi sì, diciamo che la maggior parte degli ascolti interni magari si vanno un pochettino più verso l'hardcore, quindi negli anni abbiamo potuto magari anche portare band che ancora di più sentivamo nostre, quindi magari si nota questo taglio un pochettino più verso l'hardcore. Però diciamo non è stata una scelta per dire no, ok, facciamo una cosa molto più metalcore. Diciamo che abbiamo potuto anche unire un po' i nostri ascolti, i nostri desideri, però sempre per mantenendo quell'idea di festival originale, comunque che potesse quasi un po' stupire nel suo piccolo, insomma. Quello, e guarda, come ti avevo detto probabilmente anche la volta scorsa, effettivamente sul discorso dell'originalità c'è, e come l'anno scorso, anche quest'anno ci sono veramente tante band che non conoscevo, e mettendo giù un po' la scaletta, andando a beccare qualche nome, ascoltando qualcosina qua e là, togliendo ovviamente il discorso di quelle che conoscevo già, ho trovato veramente qualcosa di veramente interessante. E, tra cui ho anche messo una che mi ha un po' più mi ha colpito, sono i Milspec e i Big Laugh, e anche questi Rescue Cat, che comunque sono nostrani, sono italiani, sono lombardi, sì. Quindi come dicevi tu, il discorso estero e italiano tiene e persiste comunque, quindi giusto anche questo apprezzamento, che magari in altri festival, come possa essere magari italiano o anche all'estero, ogni tanto viene un po', per assurdo, un attimo a mancare ogni tanto questo discorso, però è giusto anche questo. parlando un attimo di originalità, io ho trovato una band che a livello di nome, mi ha colpito, perché oddio, non l'avevo mai sentito. E probabilmente era una di quelle che ti avevo proposto di mettere in scaletta, e sono le sacerdotesse dell'Isola del Piacere, una band che non avevo mai sentito, estremamente local, perché sono di Piacenza, se non ho visto male. Sì. E come sono saltati fuori questi gruppi? Come li conoscevi anche? Ma allora, guarda che in realtà le sacerdotesse dell'Isola del Piacere sono una band in realtà storica piacentina, perché allora nell'ultimo periodo hanno suonato molto poco, anzi, ma diciamo anche per loro scelta, insomma, suonano molto poco. Adesso hanno suonato, se non sbaglio, ieri a Biella, e hanno suonato un paio di mesi fa a Bologna, ma si parla di due date. L'anno scorso ne hanno fatta una, quindi è una band che ultimamente sta suonando molto poco, però è una band che, diciamo, nel contesto, possiamo definirlo post grunge, intorno agli anni 2010, comunque quegli anni lì, 2015, insomma, era un nome anche riconosciuto anche comunque a livello nazionale, ed è un prodotto super super piacentino. E infatti, proprio per il fatto di essere così local, ma allo stesso tempo essere comunque un nome molto importante, interessante, è da tempo che volevamo farli, ma appunto non suonano parecchio, quindi è stato difficile anche un po' non tanto convincerli, però effettivamente incastrarli, spronarli per venire al festival. E quindi siamo molto contenti, anzi, che ci siano, e se riuscirai a passare. No, loro fanno cantato in italiano, appunto queste sonorità che vanno un po' dal grunge, post punk, cioè molto particolari, con questi testi anche molto molto lenti, molto poetici, molto struggenti, cioè sono particolari, e sono effettivamente un orgoglio locale, però sono una band storica, quindi non li scopriamo certo noi, anzi noi siamo contenti di averli con noi, anzi siamo orgogliosi. Buono a sapersi, infatti ne volevo appunto parlare un attimo anche con te, tirandoli un attimo fuori, perché come ti dicevo mi avevano colpito. E rientriamo in diretta, continuando sempre nella prima parte di L'Estremo Rock. Per chi che volesse, che meno male che ha già salutato su Instagram, sulla diretta che sta avvenendo, se qualcuno avesse qualche domanda per il Lowell Fest, oppure anche semplicemente qualche saluto, 333 180 94 94, messaggio su WhatsApp, che così sono qui, ho il tablet qui davanti a me e lo posso leggere e riportare in diretta, comunque oltre ai vari saluti che meno male la diretta di Instagram sta portando. Lowell Fest ormai direi quasi pianta stabile a Piacenza, perché le prime volte a Lodi, poi Piacenza, quindi un po' come funziona per il discorso location, nel senso non tanto la scelta della location, ma il poterci rimanere nella location, perché penso che ci siano anche un discorso comunale, magari cittadino, perché dici questi vengono qua a fare casino per tre giorni, c'è il vecchietino che magari non gli va bene e va al comune e dici cosa succede qui, perché... Allora, beh sì, questa potremmo fare una diretta solamente dedicata... Sicuramente. Cioè, no, allora, noi ci eravamo spostati appunto da Guardamiglio, ma proprio per motivi proprio prettamente logistici. Comunque, dove facevamo il festival l'ultimo anno, il 2022, l'anno dei Good Riddance, poi c'erano dei lavori che tra l'altro non sarebbero stati attivi appunto durante anche il festival, quindi proprio non si poteva fare. Quei lavori poi hanno anche tolto parte del parade, insomma del parco dove lo facevamo, e quindi la scelta di andare a Piacenza è stata estremamente naturale, ma proprio perché, a parte la vicinanza, perché si parla di 10 km, 12 km, insomma, e poi questo spazio 4 comunque è uno spazio storico dove ci sono stati tantissimi concerti a cui siamo sempre andati anche noi da più piccoli, e quindi abbiamo pensato lì e di spostarci lì. E devo dire che ai tempi la giunta comunale, che è la stessa, si è trovata subito molto molto disponibile e anche entusiasta. Certo, nel senso, non è facile, perché comunque è uno spazio comunale che è gestito da una cooperativa, ci sono dentro tantissimi progetti, nel senso, due anni fa, mentre c'era l'anno con i The Comeback Kid, abbiamo avuto nel mentre dei soundcheck i lavori per la costruzione di un pollaio, adesso hanno fatto i lavori per costruire un campo da pallavolo un po' in mezzo alle scale, cioè, insomma, quindi bisogna sapersi arrangiare, avere tanta pazienza e fantasia, insomma, non è semplice, quindi però diciamo la disponibilità dello spazio per ora l'abbiamo sempre avuta, e anzi con entusiasmo, quindi sono felici della nostra presenza. Loro poi vabbè, ci sono sempre le persone che durante il festival vengono a lamentarsi alle porte per la confusione e quant'altro, però sono tre giovani, nel momento stesso che abbiamo i permessi diciamo che dovranno ingoiare il rospo come anche quest'anno, ma succederà perché succede tutti gli anni. Però dai, ci troviamo bene con Piacenza, facciamo anche tanti eventi off festival, pian piano stiamo cercando di entrare un po' anche in questa nuova comunità per noi e non essere per forza ancora gli stranieri, cosa che all'inizio un po' ci sentivamo, appunto veniamo a far confusione, però pian piano dai, vediamo che siamo stati abbastanza accolti bene, devo dire. No, bene, buono a sapersi. Mi collego al tuo discorso dei concerti off festival, che effettivamente stanno prendendo un pochino più piede quest'anno. Se bene o male ho sempre visto che come Lowell Fest, come organizzazione, avete sempre fatto qualche concertino anche prima o dopo il festival, però effettivamente quest'anno ci sono altri tre eventi a parte il festival, che non mi ricordo male. Uno, gli Authority Zero, però non nello spazio 4 ma allo spazio 2. Lo spazio 2 hanno un nome molto esatto, spazio 2, alla metà, poi sempre allo spazio 2 Tsunami, e un altro esatto, che non ricordo. I Quercia. Okay. Esatto. Sì. No, allora, oltre a questi, poi in realtà ne abbiamo fatti altri 4, se non sbaglio, alla Cooperativa Infrangibile quest'inverno, quindi in collaborazione con loro. Però sì, diciamo, eventi sull'estivo, oltre al festival, abbiamo sicuramente questi tre qua. Il primo è appunto quello dei Tsunami, il 13 giugno, che sarà un po' il warm-up del festival. E poi appunto Quercia, Authority Zero. Sì, dai, c'è stata questa opportunità. Comunque lo spazio 2 è più piccolino, è facile organizzare, è bello, insomma questa tipologia di concerti di questa dimensione vengono bene, quindi sicuramente è anche un motivo per diciamo appunto crescere noi stessi come organizzazione, fare un po' di autofinanziamento e appunto portare anche delle band che di nuovo sono difficile magari che passano a trovarle in Italia e in altri contesti. Entriamo quasi agli sgocci della prima parte di Stormo Rock, e stavo parlando un attimo delle prime volte di tante band, e quindi anche il Lowell Fest ha diverse band che arriveranno per la prima volta in Italia, e anche lì c'è sempre un po' la ricerca della, come dicevi tu, della curiosità particolare. Dici guarda, mi appoggio a questo pacchetto piuttosto che a un altro per dare la curiosità piuttosto che il nome conosciuto? Ma allora, diciamo che il nome comunque cerchiamo sempre di proporlo, perché ma ci piace, è una cosa che piace anche a noi comunque, certo. Avere l'opportunità di fare un artista importante sul nostro palco è sempre motivo d'orgoglio, però chiaramente allo stesso tempo ci piace il discorso di fare un festival con tante band sui due palchi, quindi è necessario poi fare ricerca, per cui oltre l'artista, magari il nome, cosiddetto headliner, ci sia poi a supporto tutta una serie di artisti, di band che siano comunque importanti, magari che arrivano a Lowell meno conosciute, però che sono di assoluta qualità, e poi magari nel giro di pochi anni diventano delle band anche molto grandi, cioè per esempio tipo i Bad Nerves che abbiamo fatto 2 anni fa per la prima volta in Italia, adesso sono tornati a Bologna, hanno fatto sold out al Covo, hanno suonato al Magnolia, apriranno i Green Day al Firenze Rocks, quindi insomma ci fa anche piacere che delle band che arrivano da noi un po' all'inizio e poi in realtà poi possano crescere. E quindi sì, assolutamente, quest'anno devo dire che siamo riusciti in qualche modo a divertirci nella direzione artistica, e ci sono tante band che speravamo veramente di intercettare, tra cui sicuramente già nella prima sera, come citavi anche tu prima, i Millspec dal Canada. Loro sono veramente fantastici, è la prima volta che vengono in Italia, sarà l'unica data italiana, come anche l'Initiate, veramente delle band super super valide, che secondo me è anche giusto che magari arrivino per la prima volta in Italia in un contesto come Lowell, in cui è molto appunto è tutto più piccolo, e puoi vedere l'artista più vicino, insomma e secondo me anche per le band è una buona opportunità di buttarsi per la prima volta in un mercato tra virgolette diverso da quello statunitense, che chiaramente è enorme. Anche una band come loro poi magari può suonare davanti a platee importanti, e l'Europa ancora, l'Italia è sempre meno, quindi è giusto arrivarci con magari a step, e Lowell, diciamo, dai, un buono primo step per queste band. Seconda parte di Lestromo Rock, sono sempre qui collegato con Claudio del Lowell Fest, dove stiamo andando a snocciolare effettivamente quello che è il festival e di quest'anno, di quello che è stato, e magari te l'avevo chiesto anche l'anno scorso, di quello un po' che sarà. Quindi solitamente, da quello che ho capito anche da altri festival, da altri eventi, quasi si va da anno ad anno per l'organizzazione. Sì, sì, sì. Quindi anche quest'anno siete già addirittura di qualche nome, di qualche cosa, oppure aspettate effettivamente, dici, beh, ci godiamo il festival un mesetto massimo, un mesetto e mezzo, poi dopo si parte con la prossima edizione. Allora, purtroppo godersi il festival quando succederà te lo dirò, però sì. No, beh, chiaramente arrivano già delle proposte per l'anno prossimo, e sì, si è già fatto qualche nome, perché giustamente, insomma, gli artisti appunto stranieri così programmano con largo anticipo, e quindi arrivano proposte, quant'altro, noi che già un pochettino valutiamo. Però sì, insomma, almeno il festival deve finire, cioè, insomma, poi magari da due giorni dopo, quando abbiamo finito di chiudere l'ultimo tavolo, magari ci possiamo anche provare a rimettere la testa. Però sì, comunque un anno, certamente è un anno intero, cioè quando finisce ricomincia. Arrivano già ancora prima che inizi il festival, però è, insomma, non è percorribile per noi diciamo mettere troppe basi, e quindi, però sì, insomma, tranquillamente ti potrò dire che a luglio saremo già a cercare, a guardare un po' le nuove proposte che ci arrivano per il 2026, quello al 100%. A metà line up, diciamo, per modo di dire. Quindi no, mi fa un sacco piacere che comunque, come ti dicevo, sta prendendo piede comunque il Lowell Fest, quindi se avete già diverse proposte per i prossimi anni, per il prossimo anno, quello che possa essere, vuol dire che comunque quello che avete proposto, che state proponendo, avete e proporrete, sicuramente funziona, e buono così. Quindi si spera sempre che la dimensione rimanga quella, ovviamente che ci sia sempre più proposità nel fare il festival e quant'altro che non sì, sì, certo, che diventi conosciuto, ma non quel troppo da diventare odioso. Ecco, certo, no, ma noi stessi cioè, sappiamo che questa che abbiamo raggiunto, chiaramente l'idea è quella di fare ancora degli ulteriori step, ma proprio perché abbiamo bisogno di migliorarci, lo sappiamo, cioè ci mancherebbe, però comunque la dimensione, questa dimensione ci piace, insomma, ci permette di lavorare bene, di divertirci, di spaziare, insomma, quindi non ci sono mire particolari, insomma, ci piace questo, diciamo, la dimensione, l'idea che ha preso. Ok, buono sapere. Intanto saluto Cava, un mio amico, giusto così. Ho il tuo regalo, tra parentesi, e poi ci vedremo per questo piccolo off topic per quanto ci riguarda. Continuando con il festival, avete preso una band, cioè avete preso, adesso avete preso è brutto, avete messo in scaletta una band che è ritornata quest'anno sostanzialmente. Sto parlando della Crisi, che era da tantissimi anni, bene o male, che almeno non facevano live, addirittura figuriamoci se dovessero fare un nuovo album, però comunque anche da live era da tanto che mancavano. Hanno fatto queste date a cavallo del 24-25, se non mi ricordo male, e poi hanno messo giù un paio di festival quest'anno, quindi mi fa un sacco piacere che siete riusciti a metterli anche voi in scaletta, quindi anche lì penso che sia un piccolo vanto, un piccolo orgoglio averli messi in scaletta. Sì, no, siamo molto contenti di averli, una band storica che tutti noi amiamo, e siamo molto molto felici di averli. L'anno scorso, quando hanno fatto il, diciamo, la data reunion al Venezia Hardcore, ci siamo detti no, caspita, che bello, cioè, speriamo facciano altre date, e a quel punto sarebbe bello riuscire a fargli LOL. E quindi poi ci siamo sentiti appunto con Maio, così super disponibili, e l'abbiamo portata a casa subito, e siamo appunto molto orgogliosi, non vedo l'ora. Però a me piacciono tantissimo, sono forse, diciamo, le band italiane una delle mie preferite, se non la, e quindi sì. Poi tra l'altro sarà l'unica data, adesso hanno fatto qualche data appunto tra febbraio e marzo, se non sbaglio, però poi sull'estivo fanno solamente l'OL, quindi chi vuole venirsi a vedere sa dove deve andare. E poi, perché vediamo se magari hanno delle sorprese, chi lo sa, magari in futuro magari sarà della roba nuova, questo non lo sappiamo, però non si sa. Va bene. Chissà mai. E rientriamo quasi l'ultima ventina di minuti più o meno scarsi per andare a parlare ancora con il Lowell Fest e andare a snocciolare la line up. E ne avevamo un attimo introdotto, ti avevo un attimo introdotto nel fuori onda, e andiamo effettivamente un attimo a parlare degli House of Protection, un'altra band che non conoscevo e che è una di quelle tante che, come hai detto tu prima, che effettivamente è la prima volta che arriva in Italia, quindi anche qui un piccolo vanto. Sì, sì, no, qui togliamo anche l'aggettivo piccolo, cioè nel senso, allora, le House of Protection sono una band nuovissima, appunto hanno fatto uscire solamente due EP l'ultimo due giorni fa, e quindi sono, esatto, estremamente nuovi, però cioè vanno contestualizzati, cioè comunque sono un duo, Arik in prota e il chitarrista Steven, sono ex membri dei Fever 333, una band che facevano, diciamo, crossover rap metal, chiamiamolo, insomma, quella tipologia di genere di fine anni 90, stile Rage Against the Machine, ma molto più moderno, anche con delle parti elettroniche, e loro erano una band enorme, insomma, molto molto grande, cioè una band che anche in Italia ti può riempire un posto come l'Alcatraz, quindi è una catena tornasole, in Italia è sempre un po' un posto strano, però se una band ti può riempire l'Alcatraz, insomma, è una band molto importante che a me piaceva tantissimo, perché comunque sì, piace molto l'hardcore, però poi sono legato anche particolarmente al mondo del crossover, così, e quindi mi piacevano parecchio. E loro poi si sono staccati da quel progetto e hanno fondato questa nuova band che mixa molto l'elettronica con l'hardcore e quant'altro, quindi cioè loro stessi si definiscono un po' fra gli Smashing Pumpkins e i Prodigy, ok, quindi vabbè, c'è più o meno di tutto in mezzo, ok, esatto. Però vabbè, e Arik in prota, insomma, è in questo momento, ma non lo dico io che ovviamente non sono nessuno, cioè comunque uno dei batteristi più importanti e influenti quantomeno della nuova generazione, e quindi secondo me chiunque suoni la batteria, nel senso, non può non conoscerlo, e anzi io penso di aver conosciuto prima lui che magari la band, e loro sono, secondo me, veramente saranno fortissimi, e loro soprattutto penso che avranno una crescita enorme, e vederli al Lowell potrebbe essere un'occasione più unica che rara, insomma, perché già comunque all'estero fanno i festival enormi, poi hanno seguito seguiranno gli Architects in tour, poi hanno suonato insieme a Poppy, insomma, quindi sono una band che giustamente è nuova, ma che ha quella strada lì davanti, insomma, di diventare molto molto grande, quindi a Lowell insomma siamo molto molto orgogliosi di averli, assolutamente. È un'occasione per vederli in un contesto in cui secondo me non sarà molto facile riaverli, penso. Vabbè, magari mi sbaglio, però io credo sarà così. I presupposti comunque ci sono. Quindi ricordo, sì, ultimi due brani che ci andiamo ad ascoltare del Lowell Fest, di band che comunque saranno presenti al festival. Ricordo Spazio 4 a Piacenza, 20, 21 e 22 di giugno, Lowell Fest, per andarvi a beccare anche queste piccole chicche che effettivamente magari un giorno diventeranno grandi o effettivamente lo sono già un pochino. E siamo agli sgoccioli di L'Estromo Rock, puntata dedicata al Lowell Fest, che va a combinare casualmente quest'anno anche qualche nuova uscita, ma bene o male sono andato a pescarmi brani di band da quello che hanno fatto. direi che, dato che sono praticamente agli sgoccioli della puntata e tra le varie battute, saluto nuovamente Luca, se è ancora collegato, ti vado un attimo a chiedere la domanda conclusiva, perché magari so che c'è bene o male, c'è sempre quel che bene o male sai già, se non ti ricordi dell'anno scorso, però mi torna comodo se non ti ricordi dell'anno scorso, mi fa comodo a me. E prima di andare a mettere effettivamente l'ultimo brano dell'headliner, per modo di dire, che il nome dei Trophy Eyes, esatto, sì, dei Trophy Eyes, che andranno a chiudere in una giornata il festival, ricordo l'Owl Fest, spazio 4, Piacenza, 20, 21, 22 di giugno, quindi anche comodissimo, bene o male, tra che possa essere Milano, Bologna e tantissime altre città, quindi accorrete per andare a vedere tantissime band che si possono scrivere da live. Dicevo, ultima domanda, la domanda scaricabarile: c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? Urca, vai, allora non te la ricordavi, buono. Non me la ricordavo, no, effettivamente è molto scaricabarile, un po' infame come domanda. Lo so, però. No, dai, risponderò in modo, non so, più aziendalista. No, diciamo che, allora, abbiamo parlato chiaramente delle band che sono sicuramente la parte fondamentale del festival, però diciamo che poi all'Owl, diciamo, le persone comunque troveranno tanto altro, quindi ogni anno cerchiamo di rendere l'ambiente sempre più bello, inclusivo, sicuro, e quindi speriamo, quest'anno abbiamo avuto anche più tempo per lavorare a tutto quello che è quello che succede sotto il palco, ok, che comunque deve essere all'altezza, deve avere la stessa ricercatezza di quello che c'è sul palco, quindi speriamo che le persone se ne possano accorgere, lo possono godere e stiano bene al festival, perché quello che ci interessa anche molto spesso, ancora di più nei grandi festival italiani, uno va per sentire la band e poi ovviamente sono solamente grosse lamentele di la gestione di una cosa, i prezzi e quant'altro. E invece quello su cui crediamo da sempre, che portiamo avanti avendo anche, diciamo, forse l'opportunità, essendo comunque un'associazione no profit, essendo indipendente da qualsiasi cosa, di invece creare un ambiente che sia bello, cioè oltre ad avere le band belle che le persone vogliono venire a sentire, e il fatto di ok, vado in un festival perché poi posso stare bene uno, due, tre giorni, quello che uno riesce a stare. E dai, quindi questo piccolo messaggio promo da questo punto di vista, che però mi sembrava comunque giusto, quindi non solamente quello che succede sul palco, ma anche quello che succede sotto ci sta a cuore. E poi, tra l'altro, altra piccola cosa di cui siamo contenti: quest'anno, per esempio, siamo riusciti a portare, grazie a un network anche di altre associazioni e gruppi di Piacenza, la Gazza Cola al festival, e quindi cerchiamo giustamente comunque. L'hardcore non penso che non si possa slegare da quella che è la politica e un certo tipo modo di pensare, di ragionare, di porsi, e quindi nel nostro piccolo cerchiamo di fare queste cose, quindi ancora di più spero che le persone possano cogliere e apprezzare queste piccole scelte, ma sono piccole perché noi siamo comunque una realtà piccola, che però vogliono essere, appunto, rendere il festival migliore, più sostenibile, all'antitesi, diciamo, proprio tornando al discorso di prima, che belli festival con tante band, però poi ci sono tanti altri concetti, piccole cose che magari sono un po' zoppicanti, insomma. Ok, direi che penso che sia una delle più belle conclusioni degli eventi a questa domanda che ho dato, quindi andare un punto finale effettivamente su quello che uno si possa aspettare oltre le band, come dicevi tu, ma anche su quello che si possa trovare a livello sociale sul festival. Quindi io vado effettivamente a chiudere la puntata, scusami, e ti rinnovo il grazie della disponibilità. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie anche, come ti dicevo, anche per me è stato un piacere. E se riesco vengo volentieri a uno dei giorni, sono addirittura a tutti e tre. Quindi ti aspettiamo. Ti saluto e ci vediamo alla prossima. A presto, alla prossima, buona serata a tutti. Ciao, buona serata, buon punk rock a tutti.